Buonasera signore e signori, va ora in onda Clandestino Cheat. E ritorniamo qui, per fortuna, questa sera ce l'abbiamo fatta. Vado subito a presentare gli ospiti della serata da buon padrone, diciamo, di casa. Comunque, alla mia destra c'è la special guest direttamente from China, Vittorio. Buonasera a tutti, sono Vittorio, sono venuto dalla Cina. Ok, e alle mie spalle c'è una ragazza, sì, vabbè, turca calabrese che si chiama Antonietta, si sta annoiando un po' per i problemi tecnici che abbiamo avuto. Comunque, vuoi fare un saluto? Allora, ma praticamente io dovrei mettere un bel segnetto per dire che ho realizzato uno dei 3 sogni della mia vita, no? Parlare alla radio, però va a finire che sta radio è una grandissima cazzata. E quindi ringrazio in modo spettacoloso, esiste? È fantasmagorico? Tutti quanti per avermi sostenuto in questo rompimento di palle che dura da tantissimo tempo. E niente. Ok, e vado a salutare la sala macchina, il mitico Peppone. A te la parola, Peppo. Ciao a tutti, buonasera, buonasera. Un saluto a Federica Giussi, a Giulia, anche a Gio, Roberta e pure Giulia. È Giussi, chi era? Salutiamo la box del CUS. Pure Michelle, salutiamo a tutti, vabbè. Salutiamo pure... E a Stefania, vai. Volevamo scusarci per i problemi tecnici che ci sono stati, ma ci sono abbattuti di tutti, si è abbattuto sopra di noi, mouse... vabbè, lasciamo stare. Partiamo con il prossimo pezzo, che è un pezzo di Alborosi e Etana, che non conosco io. È una bella ragazza, mi immagino. Andiamo. Buonasera a tutti. Facciamo un po', non so, presentiamo questo pezzo di Alborosi, Alberto D'Ascola. Beppe, l'altro giorno pensavo, perché il reggae in Italia nasce al nord Italia, comunque da artisti del sud? Perché il reggae d'Italia nasce nel nord Italia? È una bella domanda. Una domanda a un milione di dollari, direi io. Nasce in Italia al nord perché al nord c'è, diciamo, c'è più soldi. Quindi gli artisti possono, ci sono le case discografiche che possono essere conosciuti. Al sud ci sono un sacco di gruppi poco conosciuti perché sono di nicchia, diciamo. Non tutti li conoscono perché non ci sono quelle casse discografiche che li producono. Comunque gli Africa United sono siciliani, mi sembra, no Ciccio? Sì, però nasco a Torino. Appunto per questo, dico, al sud abbiamo... Calabro Lucano, come la quale sono le ferrovie. Comunque, il fatto sta che al sud abbiamo la mente, là c'è, diciamo. Sì, no, salutiamo gli amici del nord che ci ascoltano. Non penso che ci. Non lo so. Comunque, vai, Ciccio. No, volevo ricordare soltanto una piccola cosa. L'altra volta ascoltavo i Mozilla, che saluto, e si parlava appunto di privacy, del copyright. Cosa, cioè, se serve a volte, se non serve. Poverino, cosa gli è successo ad Alborosi? L'ultimo CD che ha fatto, To Time for Revolution, è stato praticamente craccato, e prima che il CD venisse, come dire, esposto al pubblico, no? Spedito, niente, già lo conoscevano tutti perché era libero su YouTube, capito Pep? Una bella fregatura. Vabbè, il copyleft è una cosa bella comunque. Vabbè. Comunque, vabbè, ha fatto innanzitutto pubblicità, come dice la mia cara collega qui. Poi io sono per il copyleft. Il diritto d'autore è una cosa cattiva perché non incentiva la diffusione del materiale. Basta. Va bene, va bene. Niente, passiamo il prossimo pezzo, che dopo a Rita Franklin. Adesso andiamo con Barry White, Dance in the Moonlight. Torniamo subito in studio e salutiamo tutti gli amici che ci ascoltano da Roma, come Cristina Marina, Luigi Rizzuti, Emiliana, Gian Domenico, Alessandra, Andrea, Bennini da Cosenza, Angelo da Sersale, e chi più ne ha più ne metto. Comunque, a tutti, salutiamo tutto il mondo, come direbbero nella Francia, a tout le monde, a tout le monde. Ok, Beppe, so che devi dire due parole, o tre parole, solo cuore amore, no, attrezzata. No, non volevo dire assolutamente nulla, Ciccio. Volevo intanto salutare una persona che mi sta molto a cuore, Daniele, un mio amico che mi scrive su Facebook delle belle parole. Un saluto anche ad Emiliano, la mia voce è sempre sexy, grazie Emiliano. Non lo so, se vogliamo iniziare con il nostro ospite, Ciccio. Il nostro ospite, Vittorio, viene dalla... Aspetta. Vittorio, ma qual è il tuo vero nome? Cenda. Cenda è il mio nome cinese. Vittorio è il nome italiano. Cos'è che ti ha colpito maggiormente dell'Italia? O in positivo o in negativo? Mi piace le persone, mi piacciono le persone italiane, perché quando sono venuto qua io non conoscevo l'italiano e sono venuto degli amici italiani e mi hanno aiutato molto molto ci usiamo e ci divertiamo e io piano piano ho imparato la lingua italiana, la cultura che anche mi piace molto la cultura italiana e il mare. Sono andato a Tropea e Soverato. Sì, sì, mi piace molto, molto. Anche la cucina. Sì, sì, sì. Anche la cucina mi piace molto, come la lasagna, gli spaghetti, i dolci, come gelati. Penso gli italiani sono bravissimi sul dolci e spaghetti. Sono famosissimi anche in Cina, ci sono molto ristoranti italiani. I miei amici cinesi che ci vanno sempre al ristorante italiano. Va bene, Vittorio. E comunque, cioè, voglio dire, in Italia è arrivato un po' il culto anche della tua terra, tra, non lo so, agopuntura, ristoranti cinesi. Conosciamo ben poco della tua terra, cioè anche negozi, sì, molti negozi. Infatti diciamo che al giorno attuale la Cina è proprio un paese in espansione. In espansione, cioè viaggia, si sta espandendo in Europa, in Africa, in America. Cioè, sai dirmi qualcosa al riguardo? Questo io penso per noi, perché abbiamo una popolazione grande, quindi vogliamo uscire all'altro paese per diciamo che guadagnare i soldi. Quindi per noi ci sono delle persone che vogliono andare fuori a come a aprire i negozi e vendere qualcosa. Per me è positivo, perché portiamo qualcosa a prezzi basso. Portiamo ristoranti cinesi che per voi italiani che possono mangiare i cibi cinesi, anche per noi studenti che siamo venuti a Italia, che abbiamo comunicato molto con gli studenti italiani, studenti internazionali. Abbiamo diciamo che cambiato la cultura e ci conosciamo più profondamente. Penso questo è molto positivo per noi due paesi che sì. E Clandestino Cid nasce proprio per questo, per essere positivo. Tra l'altro io volevo ringraziare Vittorio e dire, sottolineare che è un grandissimo cuoco. Lui e Diego mi invitarono a cena l'anno scorso, cucinarono tutto con la base di soia, non lo so, tantissime cose squisite. Vittorio, tu cosa studi? Io studio farmacia. E quanti anni, da quando serve in Italia? Sono venuto in Italia per un anno e mezzo. Benissimo. Adesso, Vittorio, vorremmo parlare un po' della cultura cinese in generale, cioè a dire a livello di cultura, politica, religione. È arrivata anche una domanda da un nostro ascoltatore. Ricordiamo che è possibile interagire con Clandestino Cid tramite Facebook oppure scrivendo alla nostra email clandestinocid@gmail.com. E un nostro ascoltatore ci chiedeva, Luigi, ci chiedeva di che religione sei. Sono taoismo. Taoismo è la religione proprio cinese, proprio vecchia. Cosa venerate? Venerate. Avete pregate? Quale Dio pregate? Preghiamo. Il nostro Dio è un po'. C'è la differenza perché il nostro era un vecchio uomo che era vero nel mondo, ma è vecchiasimo. Questo è un po' difficile di spiegare perché è proprio cinese. Capisco. E qui ci scrivono sempre Luigi il Tao. Sì, Tao. Ok. Sì, per questa religione che noi tradiamo chiunque in positivo e negativo, in cinese è yin yang, questo anche la cultura cinese, noi guardiamo le cose, le due cose in due rispetto, come positivo e negativo, yin yang. E noi vogliamo sempre trovare bilanciare, vogliamo trovare un bilanciare, qualcosa che vogliamo sempre stare nel mezzo e non diventare troppo positivo, non diventare troppo negativo. Come la chiesa per noi, la chiesa cinese per il taoismo sempre quello famoso sempre nella montagna, ci sono quello, dei come qua il papà per noi diciamo Tao Shi, che fare qualcosa per come la festa, qualcosa. Vabbè, comunque è un profeta in generale. Ok, ma e poi ci chiedevano un po' come la via di mezzo del Buddha, appunto, sto fatto del Ning e del Yang. Sì, come il mezzo della Buddha. E a proposito di buddismo, che fine ha fatto il Dalai Lama? Dalai Lama. Ah, Dalai Lama, questo è un po' la cosa della difficile di spiegare perché Dalai Lama prima lui era in Tibet. Tibet è una parte della Cina, ma lui come vuole Tibet diventare libera from la Cina, ma come possiamo non possiamo vogliare, non vogliamo così, quindi lui è uscito dalla base e adesso lui sempre va alla base a dire che vuole fare Tibet liberare from la Cina. Per questo non mi piace lui. Ok, Vittorio, ma sappiamo, io almeno da fonti ANSA so che praticamente il governo cinese ha istituito un nuovo Dalai Lama, cioè fuori dall'ordine religioso, e comunque per questa ragione, anche per la ragione che appunto dicevi prima tu del fatto che adesso il Dalai Lama è fuori dal Tibet, tantissimi monaci, sappiamo che da 14 mesi a questa parte 33 tibetani si sono dati fuoco, proprio, cioè la protesta dei monaci tibetani contro comunque il potere che imprime lo Stato. Non è una cosa positiva questa, diciamo. Vivono in schiavitù, cioè sono soppressi. Ma questo, come posso dire, ma per noi non vogliamo, è difficile di dire questo, è una parte di politica. Comunque Tibet è una parte della Cina, Dalai Lama non è necessario di fare così. Lui se vuole vuole qualcosa, qualche interesse, lui vuole parlare con il nostro governo. Adesso Tibet è diventato molto molto meglio di prima, perché adesso i popoli in Tibet vivono bene e la parte di Tibet è sviluppato molto molto. Se volete vedere la situazione adesso del Tibet, potete andare a Tibet a vedere. Non ascoltare troppo Dalai Lama, perché lui non parla la cosa troppo vera. Va benissimo, Vittorio. Quindi Vittorio vi sta invitando tutti comunque ad andare in Tibet per vedere se la situazione è cambiata oppure no, e quindi è l'invito che fa Clandestino Cheat, perché comunque non vogliamo aggiungere altro. Comunque questa sera Vittorio ha portato un pezzo che adesso ci presenta, la tua soundtrack. Tu l'hai tua. Di cosa parla? Accident in me. In inglese, no. Ok. E l'artista si chiama? Wubei, China Blue. Wubei. È una canzone d'amore? Che cosa parla? Sì, un po' amore, un po' loco. La vorresti dedicare a qualcuno? È esigenza, diciamo. Divertitivi. Ok, suona. Oh, 情放在心头，在寒冬时候就回忆你温柔，把开怀填进我的心扉，伤心却是带着微笑的眼泪，数不尽相逢，等不完守候，如果仅有此生，有何用再从头。来来来，喝完这一杯还有一杯，再喝完这一杯还有三杯，那就不要留，时光已过不再有，你远眺的天空挂更多的彩虹，我会紧将你豪情放在心头，在寒冬时候就回忆你温柔，把开怀填进我的心扉，伤心也是带着微笑的眼泪，数不尽相逢，等不完守候，如果仅有此生，有何用再从头。 E siamo ritornati, siamo qui tutti insieme ancora una volta con Clandestino Cid, insieme a Vittoria, Ciccio, Antonietta e altri mille francesi, italo-francesi, petronesi, rossanesi. E c'è anche gente di... no, non c'è più nessuno. Allora, volevamo continuare con l'intervista a Vittorio, con domande un pochettino un po' più, diciamo, un po' più serie, non lo so come definire. La Cina, definita una delle più grandi potenze mondiali allo stato attuale, viene spesso definita comunismo, la Cina, ma secondo me la Cina è un paese capitalistico come gli Stati Uniti, in cui c'è molto sfruttamento, la gente viene pagata poco in Cina, mi sembra, Vittorio. Lavorano tante ore, vengono pagati poco, infatti molte imprese multinazionali trasferiscono le loro fabbriche dall'Europa in Cina perché lì pagano pochi euro e sfruttano le persone da un certo punto di vista. No, da un certo punto di vista le sfruttano. E in più poi il mondo accusa la Cina di produrre materiali scadenti quando producono i materiali, c'è questo problema del mondo, diciamo, quando uno vede roba cinese dice questa non è roba buona perché viene fatto 4 soldi. Tu come la vedi questa situazione? Allora, la prima domanda è la persona con il basso salario? Sì, questo perché, perché i soldi, perché, come si dice, Luigi? Perché noi usiamo renminbi e qua in Europa usiamo euro. Sì, perché per noi un renminbi è 8 renminbi solo un euro, la stessa cosa, quindi se la fabbrica europea è trasferita in Cina, loro per esempio pagano per un euro, invece in Cina solo pagano per 4 renminbi e basta. Quindi questo è un buon business. Anche in Cina adesso gli strumenti stanno costruendo bene, quindi è una buona situazione per la fabbrica, per tutto, quindi è buono. Anche per noi cinesi che lavoriamo sempre, che lavoriamo più e non vogliamo essere pagati troppo, perché sì, per questo che adesso le fabbriche, soprattutto le fabbriche di prodotti elettrici, che vogliono trasferire la fabbrica in Cina. Per la qualità del prodotto, sì, adesso c'è il problema che sempre c'è qualcosa che con la qualità bassa. Anche questo non mi piace. Adesso stiamo cambiando la situazione. Dobbiamo prendere piano, perché è difficile. Perché noi vendiamo un prodotto con pochi soldi. È difficile di fare un prodotto con pochi soldi e con alta qualità. Questo è difficile, ma piano piano dobbiamo cambiare questa situazione. Dobbiamo vendere i prodotti buoni, ma con adeguata prezzo. Questo. A proposito di prodotti cinesi, ringraziamo anche il nostro ospite, tutta la Cina, per i vari cartoni che, come dire, hanno cullato le generazioni dall'inizio degli anni Ottanta fino ai giorni nostri. Comunque, a proposito di Cina, tra la Grande Muraglia, che Vittorio conoscerà, la Grande Muraglia? La grande muraglia si chiama Changcheng in Cina. Questo è molto molto vecchio, che prima i nostri ancestri che vogliamo difendere di loro, che non vogliamo vogliono fare la guerra con i nemici, quindi hanno costruito questa grande muraglia per difendere loro. Adesso, fino adesso, la grande muraglia non si rompe mai, quindi questo questo è una grande meraviglia nel mondo. Anche siamo orgogliosi per questo. Sì, infatti una bellissima storia. Un'altra bellissima storia sono anche tutti quei soldatini che sono stati ritrovati, soldatini a statura di 1,60 m in terracotta del vecchio esercito, diciamo, cinese, prima dell'avvento di Mao. Appunto, i nostri ascoltatori sicuramente vorranno sapere una parolina da chi vive in Cina, e magari tuo nonno, tuo papà avrà vissuto il dominio di Mao, diciamo, il governo, ok, di Mao è un grande persona in Cina, perché lui ha liberato tutta la popolazione cinese, perché nella guerra mondiale secondo noi, i popolari cinesi erano tutto nella guerra, che è tutto terribile, che non abbiamo niente diritto, non abbiamo niente, ma Mao hanno fatto la liberazione, che adesso la Cina è diventata grande. Noi non abbiamo paura di dei nemici che fanno qualcosa male a noi, a nostri amici, che adesso siamo orgogliosi. Vabbè, i vostri amici della vecchia URSS, diciamo. Ok, Vittorio, niente, passiamo la parola a Peppe, vediamo a dare due paroline. Io volevo fare una domanda innanzitutto a Vittorio, per chiedergli se la Cina è da considerarsi uno stato, come era definito in precedenza, comunismo, o uno stato capitalistico come gli Stati Uniti. Dipende dall'economia attuale della Cina. In più volevo dire se conosce Marco Polo. Che era un italiano che è venuto in Cina. Di queste domande. Marco Polo è la prima persona che è venuta in Cina, che lui è molto famoso in Cina perché lui è proprio la prima persona che ha portato la cultura cinese al mondo, soprattutto a europeo, penso così. Anche lui ha portato qualcosa come i prodotti e la cultura dell'europeo a Cina, quindi è una grande persona che ha fatto la comunicazione tra due parti. È una grande persona. Va bene, Vittorio. Passiamo alla parola a Ciccio, che vediamo cosa vuole dire. Niente, abbiamo, perché stasera anche grande storia, clandestino Gido, non soltanto le solite stronzate che si dicono nelle varie radio, nelle varie programmazioni, comunque grande storia, anche partiamo da Marco Polo questa sera, grazie a Vittorio. E abbiamo, oltre un po', cioè alle varie storie, alle varie vicende passate, abbiamo anche una curiosità, un po' di spettegulezza, diciamo. Niente, mi domandavo, il nostro ascoltatore, praticamente, magari un tema anche che non so se ti darà fastidio, però dobbiamo fare la domanda, Vittorio, questa è una radio libera, quindi dobbiamo fare. Sarai tu a decidere se rispondere o no. Comunque, mi domandava, perché se muore un cinese, cioè, diciamo, qui... non si trova il cadavere, cioè il passaporto, cioè che, voglio sapere che fine fanno i morti cinesi che muoiono qui in Italia. Io ne avevamo già parlato con te della cosa, comunque spiega ai nostri ascoltatori che succede, perché praticamente dicono che non si trovano i morti cinesi, alcuni pensano che vengano mangiati gli stessi cinesi, cioè proprio miti candito. Cioè, non lo so, Vittorio, spiega tu. Quando un cinese muore, che fine fa? Se muore una persona, noi facciamo quello, come si chiama? Sì, le cremate, perché come abbiamo una popolazione grandissima, il governo è, noi abbiamo deciso di non fare sciupare la terena che troppo. Dobbiamo fare rimanere la terena per fare crescere la pianta. per mangiare, per la fabbrica, per per qualcosa che vale la pena. Quindi abbiamo deciso di fare questo. Questo lo so è un po' fa male, ma come possiamo fare? Dobbiamo okay. Non fa male, perché comunque il culto del dei morti che vengono cremati c'è in tutto il mondo, quindi giustamente il vostro pensiero è di utilizzare la terra magari per coltivare, per costruire una fabbrica, non per seppellire morti. Va benissimo, Vittorio. Ci dispiace a tutti che Vittorio, cioè, deve andare via, ci lascia, arrivato a sto punto. Magari mandi una buonanotte a tutti in cinese, non so, una filastrocca, quello che vuoi. Buona notte a tutti. Ciao ciao. Con ciao ciao di Vittorio mandiamo subito il prossimo pezzo, che è di Carlo Santana. Ok, tutti che ringraziano Vittorio che è andato via. Passo subito la parola alla sala macchine perché Peppe ha una notizia veramente sconvolgente. Vai Peppe. Secondo, sto arrivando. Allora, girovagando per internet ho trovato una notizia abbastanza singolare, diciamo. È un pochettino datata. La notizia è del 26 novembre. Però è una bella notizia. No, è una notizia abbastanza simpatica. Papa denunciato in auto senza cintura, la notizia titola. Il Papa è stato denunciato, era a bordo di un'auto, modello Papa Mobile, senza cintura di sicurezza, e stava percorrendo, tra due ali di persone, a lui fedeli, un'importante arteria di Friburgo, in Germania. Probabilmente sarebbe stata annotata in questi termini burocratici la violazione del codice della strada tedesco compiuta dal pontefice durante la sua visita a Friburgo in Germania. Chiaramente però queste non sono le zelanti parole di un altrettanto zelante poliziotto tedesco. Ma di un poliziotto, non un cane tedesco, non un pastore tedesco. Ma sono le comunque zelanti parole contenute in un esposto denuncia presentata da un cittadino tedesco contro il Papa. Reo, secondo questo cittadino, di aver circolato sulla Papa Mobile senza cintura di sicurezza, come prescritto dal codice della strada. Il pignolo automobilista che ha presentato la denuncia contro il Papa si chiama Juve Hilsmann, perdonate il tedesco. L'uomo ha denunciato Papa Ratzinger, ma non si è chiaramente limitato a questo. Nel suo esposto, infatti, vengono chiamati in giudizio anche il presidente della conferenza episcopale, Robert Zollisch, e il presidente del Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann. Ma la pignoleria del cittadino tedesco non si è fermata a questi nomi. L'uomo, infatti, ha dichiarato di poter portare a sostegno della sua accusa denuncia centinaia di testimoni. E come potrebbe essere diversamente? A prima lettura sembrerebbe una notizia strana, ma invece è tutto vero, anche perché ora il tribunale tedesco sarà chiamato a pronunciarsi sulla questione. Il Papa è denunciato per circolazione senza cintura, potrà essere portato in giudizio o potrà avvalersi dell'immunità diplomatica in quanto capo di Stato estero. In attesa di conoscere la risposta a questa domanda, possiamo però affermare che grazie a questa denuncia il cittadino tedesco e il suo avvocato sono diventati noti in tutto il mondo. Come ovvio che sia in questi casi, i diretti interessati parlano di necessità che il Papa dia il buon esempio e afferma di non aver nulla contro la Chiesa. Va bene. Per restare in tema, vabbè, non in tema, in sede, diciamo, in sede vaticana, una notizia che mi ha sconvolto, ma non in termini proprio di sorpresa, ma molta tristezza, come direbbe Manu Chao, infinita tristezza. Praticamente un cardinale spagnolo, Javier Echevarria Rodriguez, scuso per l'ignoranza nella lingua, comunque ha fatto un'ultima intervista, comunque parlava praticamente appunto degli incesti, degli atti impuri, la solita romanzina, e ha colpito il mondo intero una frase shock del vescovo spagnolo che dice: figli handicappati per colpa dei genitori impuri. Quindi, arrivato a questo punto, Peppe, penso che si arriverà di nuovo a appoggiare le nuove date per le prossime crociate, oppure, non lo so, stasera partiremo una bella squadra per dare la caccia alle streghe. Con i nostri amici dell'SS andiamo lì e distruggiamo tutti quelli che sono usciti con un occhio storto, senza un'orecchia, con due peni, non lo so, con i capelli ricci, rossi soprattutto, con le lentiggini, quelli sono i peggiori. Mamma mia che gentaglia quella. Oppure, che ne so, tra due, quelli poi mulatti, quelli, non ne parliamo, quelli sono proprio gentagli. Ciccio, vai. No, perché secondo me arriverà sta domanda qualche giorno in sede vaticana, perché proprio la domanda, riapriamo di nuovo i campi di concentramento. A riguardo di varie domande che ci sono state in questi giorni, comunque c'è stato l'arresto di uno dei corvi del Vaticano. Che cosa sono i corvi? I corvi sono dei cardinali, i loro segretari personali, diciamo proprio, cioè, in un articolo su Repubblica parlano proprio di pesci piccoli. Pesci piccoli, caro Peppe, che comunque vengono è stato arrestato uno di questi pesci piccoli e lui diceva per difendere il Papa. Adesso la notizia già è trafilata al Vaticano, chissà per quale santa mano, e niente, adesso si attende, non lo so, una risposta a questo quesito, cioè perché è stato arrestato, perché difendeva il Papa. Ma difendeva il Papa da cosa? Lasciando il quesito, mandiamo un pezzo di Johnny Cash, un personal Jesus. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone to care. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. E si ritorna, si ritorna, si ritorna. A proposito dei citati campi di concentramento, c'è un'operazione FM339,40 del nuovo ordine mondiale che prepara l'internamento e la rieducazione ai campi di concentramento. Questo avviene in America. Praticamente, niente, ci sono dei... è proprio un documento trapelato da USA Army, un preparato per il Dipartimento della Difesa, che contiene i piani scioccanti per gli attivisti politici. Praticamente per proprio questi attivisti vengono in un certo senso rinchiusi in questi campi di concentramento per essere apprezzati, per essere comunque, per avere un apprezzamento in più della nuova politica americana. Io direi, non lo so, arrivato a sto punto, cosa dovremmo aspettarci da anche dai cugini americani? Cioè, sono delle frasi shock. praticamente parlano proprio dei veri e propri lager, come succedeva, non lo so, nella seconda guerra mondiale, per quanto riguarda i vari regimi totalitari, nazismo, campi di internamento anche di quelli fascisti, perché comunque ricordiamo che il cosiddetto Duce costruiva comunque questi campi anche per diciamo un'opera di rieducamento, no, alla politica. Questo succede oggi nel 2012 anche in America, Peppe. L'America, davvero, in America ci sono state cose. L'America è tutto rose e fiori, non lo so, le strade sono fatte d'oro, non si muore di fame, si sta benissimo, ci sono. C'è il McDonald's, c'è Obama, non lo so, tutte cose belle ci sono in America. Quando uno deve andare a fare fortuna dice vado in America, perché in America è tutto bello, tutto nuovo. E invece succedono anche queste cose in America. Quindi non ha tutti questi aspetti positivi questo favoloso nuovo mondo, che è vecchio di 500 anni questo nuovo mondo, che forse ne ha qualcuno in più, dato che gli americani veri non sono gli attuali statunitensi o gente che sta alla mare, erano i pelle rossi americani, gli Inc, gli Aztechi, i Maya, che hanno protetto la fine del mondo secondo alcuni. Erano loro gli abitanti dell'America che sono stati, diciamo, uccisi tutti quanti, sono stati, come si dice, massacrati, sì, come ricordo anche in una canzone di Andrea, Fiume San Creek. Erano loro i veri abitanti dell'America, ora sono stati confinati nelle riserve, sembra che sono dei, che ne so, mettiamo questi qua nella riserva. Io quando devo, la riserva è quella della macchina, quando rimango la riserva è quello che mi permette di andare a fare benzina. Invece qua mettiamo i pellerossi nelle riserve e li andiamo a fare la fotografia, perché sono belli da vedere questi indiani. Fanno, fumano la cosa della pace, hanno le piume, i cavalli, sono amici della natura e stanno là in quel recinto tipo delle, a pascolare, diciamo, e a farsi le foto con i turisti. Un po', Peppe, diciamo, i panda dell'India, cioè con tutto il rispetto... della Cina, sì, specie in via di estinzione che vengono rilegate in questi, e obbligate a stare in questi posti e niente, fotografati come delle statuine. Peppe, direi di passare il prossimo pezzo proprio a proposito di questi stati, non lo so, imperialisti. Mandiamo un pezzo che ci presenti tu, Peppe. E questo pezzo si presenta da solo, secondo me, è il titolo, basta, è l'imperatore. Sistema solare, sono io la volta celeste, sono io la luna ed il mare, sono io la ragione del mondo, sono io lo spazio ed il tempo, sono io il bisogno del cielo, sono io il Corano e il Vangelo, sono io, sono io, sono io l'imperatore. Del cuore, sono io la bocca del male, sono io la filosofia, sono io la tecnologia, sono io il cervello più arguto, sono io il sovrano assoluto, sono io, camisa, prestum la corona, prestum la divisa. Sul padron, per i vesti il tuo fratello, indrizza la tour de Pisa, sturta la tour Eiffel. Sul padron, dal tuo lato del guinzaglio, anche se tira ci si sente molto meglio. Sul padron, ti diciamo basta, però se puoi, imprestaci la frusta. Ritorniamo, ritorniamo in trasmissione. Ok, niente, Clandestino Cid vuole ricordare ciò che è accaduto la notte del 15 maggio 2012 a Reggio Calabria. Praticamente è stato incendiato il centro sociale Cartella, e proprio il 26 c'è stata una manifestazione in... comunque per ricordare l'accaduto, il fatto proprio tragico, ancora c'è la mano, non lo so come definirla, violenta, che va a deturpare comunque luoghi che servono molto alla società in generale, luoghi che permettono anche l'istruzione a molti bambini, luoghi ricreativi per giovani, ma non solo. Niente, volevo ricordare che comunque ci saranno delle occasioni anche come nell'Aula P2 giorno 6 giugno con musica ambiente, e si farà una raccolta fondi per il Cartella, che comunque c'è l'esigenza di essere ricostruito, comunque deve essere ricostruito. A proposito, per quanti volessero contribuire a distanza per ricostruire il Cartello, il Cartello a Reggio Calabria, c'è l'indirizzo, un conto corrente postale, ve l'ho detto qui in onda, ed è 1 0 0 6 3 8 4 4 0 6, ripeto, 1 0 0 6 3 8 4 4 0 6, intestato a Io sto con il Cartello, IBAN IT 14 7601 63 00 00 6 3 8 4 4 0 0 6. No, ma perché ci sono proprio scene di panico questa sera. Comunque è venuto a trovarci il nostro carissimo amico che sarà l'ospite d'onore, lanciamo proprio questa news alla prossima trasmissione. Comunque vorrei ripetere il tutto, conto corrente postale 100 63 4 06, intestato a Io sto... No, lo facciamo dopo, dai. Scene di panico. Al riguardo, noi Clandestino Cid vorremmo... Abbiamo deciso di... dedicare una canzone al Cartella. Comunque vabbè, tutte queste smanie, risse, speriamo che portino a qualcosa di concreto anche alla ricostruzione del Cartella. Niente, andiamo con il pezzo. Hey! c'è qualcuno che ci vuol far vivere nell'ignoranza, perché sa cosa fare dei malconscienza e pensa solamente con sei inchia la panza. Chiaro? Vagno le cave sta assenti, usa sempre la capo, cancia gli ghietti, non cancia mai niente, se non senti prima di e vi giuca cangiato. Questa realtà, vieni condannato alla tua povertà, la tua ignoranza serve all'autorità, perché la cultura si paga a suon di milioni, e sempre più, e dei padroni, quelli che girano nei macchinoni, sempre pronti a fare proclami, intanto il poverone che ti è relegato, la dominanza è il suo stato, solo questo la strada gli ha insegnato, il più violento viene rispettato, il più violento. Eccoci qui ritornati. Volevamo ripetere il codice, il conto corrente postale delle, per chi volesse aiutare il cartella. Il conto corrente postale è 10 06 38 44 06. Intestato a Io sto con il cartella. L'IBAN è IT 14 IO no I07 60 no scusate I07 60 11 63 0000 10 06 38 44 06. Comunque c'è sulla nostra homepage di Facebook, c'è il link su, all'articolo sul manifesto dove potete leggere i fatti accaduti. dove il centro sociale cartella di Reggio Calabria è stato bruciato da forse sicuramente di natura fascista, dato che hanno trovato delle svastiche e croci celtiche disegnate sui muri. Mafiosi e fascisti lì io li metto sullo stesso piano, quindi la mafia non esiste. Sì, come diceva Totorrina, mi sembra che lui non aveva mai sentito parlare della mafia. Ma secondo noi la mafia esiste ed è in tutte le nostre città. Noi da calabresi lo constatiamo sulle nostre pelle. Il giorno la mafia che uccide, la mafia del palazzo, anche quella che ci... il voto di scambio, anche quella è mafia. Qua l'omertà soprattutto è la mafia. L'omertà è la colonna portante della mafia. Se noi abbiamo paura, loro vanno avanti. Se noi invece non abbiamo più paura, si può cambiare. La Calabria si può cambiare. Passo la parola a Ciccio, vediamo di cosa ci vuole parlare ora. Niente, leggevo una notizia di Hans, l'ultima ora. Praticamente Cassazione alla Diaz, violenza inusitata. Praticamente parla il blitz delle forze dell'ordine alla scuola Diaz di Genova, il massacro, certo, quel massacro che ancora c'è, viene quasi rinnegato, non lo so, la sera del 21, la sera, quella sera del 2001 al G8, durante il quale perse la vita il giovane manifestante Carlo Giuliani, fu diciamo l'articolo parla praticamente che la Cassazione ricorda subito che il presupposto del blitz si basa sull'accertata falsità del ritrovamento di due bottiglie di Molotov nella Diaz. E praticamente poi ci parla di sempre la Cassazione, che scrive: nelle motivazioni del proscimento dell'ex capo della polizia Gianni De Gennaro, ora sottosegretario con delega all'intelligence, che alla corte d'appello sì, è stato promosso praticamente il 17 giugno 2010, aveva condannato a 4 anni a 1 anno e 4 mesi di reclusione per aver istigato la falsa testimonianza l'ex questore Francesco Colucci insieme all'ex capo della Digos Spartaco Mortola, condannato a 1 anno e 2 mesi, anche lui assolto. Praticamente Peppe, in tutto questo Carlo Giuliani è morto, ma vive in tutti noi, infatti lo ricordiamo con tanta stima. E praticamente niente, ancora la storia della Diaz viene diciamo girata, anche infangata. Il caso proprio di dirlo, la sento proprio di cuore questa cosa. Qua assistiamo proprio alla cosiddetta macchina del fango, per la macchina del fango che il cancro dell'informazione italiana che sta portando a un popolo di ignoranti, un popolo che comunque leggendo anche le notizie riguardanti la scuola Diaz di Genova pensa che i ragazzi che erano all'interno di questa scuola fossero tutti, non lo so, dei terroristi, dei selvaggi, il nemico dello Stato, quando in quel determinato in quel determinato punto nella Diaz e in quel determinato periodo comunque le forze dell'ordine hanno esercitato proprio una violenza inaudito, un massacro verso vittime innocenti. Al riguardo comunque vorrei tanto consigliarvi un film documentario che parla del G8, che si chiama Bella Ciao. Su questo fatto volevo spendere anche due parole. L'altro, qualche giorno fa, qui nell'aula occupata P2 dell'Unica, l'abbiamo fatto anche una proiezione, abbiamo parlato con gente che c'era nel 2001 a Genova. È stato proiettato un documentario che si chiama Diaz. In pratica, cosa è successo in quella scuola nel 2001? dei ragazzi stavano dormendo, erano andati a manifestare per esporre il proprio dissenso contro gli 8 potenze maggiori del mondo, che con nessuna autorità si sono riuniti là per decidere le sorti del mondo, diciamo, nessuno li ha eletti, diciamo, anche se nessuno ha fatto nulla. Loro si sono riuniti là e hanno deciso loro che devono decidere del mondo, dei destini del mondo. Queste persone che manifestavano a Genova si sono accampate quasi tutte nello stadio di calcio, le altre qualche centinaio erano nella scuola Diaz. E sono arrivati all'improvviso nella notte questi Robocop, vengono definiti in questo documentario da una persona che dormiva là dentro, un ragazzo tedesco, e sono stati tutti massacrati di botte più volte, sono stati massacrati, sputati, calpestati, appesi agli armadi, proprio quasi in fin di vita. Poi sono stati portati in un ospedale e sono stati anche lì ancora picchiati, denudati e derisi dai poliziotti. Li hanno picchiati per 3 giorni di fila, li hanno portati nella Bolzaneto. Diciamo, è successo di tutto lì. E ora il capo della polizia di Gennaro è stato promosso perché ha fatto bene a picchiare. E Carlo Giuliani è morto perché era un black bloc. E tu hai visto tutti felici e contenti. La storia la scrivono i vincitori, come al solito, e quindi queste persone che vanno a manifestare sono i cattivi e i poliziotti sono i buoni. È sempre così. E che ci vogliamo fare? No, vorrei anche ricordare qualcosa ai nostri ascoltatori, sempre anche per ci ricolleghiamo alla manifestazione che c'è stata a Roma ad ottobre, che comunque il movimento Black Bloc non esiste più. Il movimento è sciolto. Passiamo adesso un altro pezzo dei Black Sabbath. We'll be right back. ed erano i Black Sabbath, gruppo heavy metal britannico nato nel 68. Ricordiamo due parole sui Black Sabbath: una formazione storica, quella costituita da Ozzy Osbourne, Tommy Yom, Butler e Ward alla batteria. Successivamente comunque arriva Dio, come diceva Anthony e Peppe, l'unico Dio che riconosciamo, non lo so, qualcuno avrà da ridire su questa affermazione di Peppe. E niente, volevo ricordare anche Ronnie James Dio, un grandissimo cantante, uno dei il primo album che proprio Dio fece con i Black Sabbath, Heaven in Hell, con i quali abbiamo estrapolato questa canzone. E che dire, viva la buona musica, Peppe, viva la buona musica. E viva la buona musica, sempre e solo. Qui a Clandestino sembra che la musica buona non manchi mai. C'è gente che passa bella musica. Non lo so, Ciccio, possiamo, dato che stiamo parlando di bella musica, vorrei mettere un pezzo di un cantante anch'esso scomparso, giovanissimo, affogato in un lago in America. Sì, sì, non stessa, sono morti tutti e due in maniera diversa. Sì, sempre affogati. Andiamo con Jeff Buckley, Last Goodbye. bonito, todo me parece bonito. Bonita mañana, bonito lugar, bonita la cama, que bien se ve el mar. Bonito es el día que acaba de empezar, bonita la vida. Respira, respira, respira. Mi teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal, la vida le pesa. Que vivir así ya no le interesa, que se irá si no vale la pena. Se perdió el amor, se acabó la fiesta, ya no anda el motor que empuja a la tierra. La vida es un chiste con triste final, el futuro no existe, pero yo le digo bonito. Todo me parece bonito. Bonito. Todo me parece bonito. Bonita la paz, bonita la vida, bonito volver a nacer cada día. Bonita la verdad, no suena mentira. Bonita la amistad, bonita la risa. Bonita la gente cuando hay calidad. Bonita la gente que no se arrepiente, que gana y que pierde, que habla y no miente. Bonita la gente, por eso yo digo bonito. Todo me parece bonito. Todo me parece bonito. Qué bonito que te va cuando te va bonito. Qué bonito que te va. Qué bonito que te va cuando te va bonito. Qué bonito que te va. La samba, la tierra, la paz y la vida que pasa. Bonito. Todo me parece bonito. Tu cama, tu salsa, la mancha en la espalda, tu cara, tus caras, el fin de semana. Bonita la gente que viene y que va. Bonita la gente que no se detiene. Bonita la gente que no tiene edad, que escucha, que entiende, que tiene y que da. Bonito porte, bonito pe. Bonita la rumba, bonito José. Bonita la brisa que no tiene prisa. Bonito este día, respira, respira. Bonita la gente cuando es de verdad. Bonita la gente que es diferente, que tiembla, que siente, que vive el presente. Bonita la gente que estuvo y no está. Bonito. Todo me parece bonito. Todo me parece bonito. Qué bonito que te va cuando te va bonito. Qué bonito que te va. Qué bonito que se está cuando se está bonito. Qué bonito que se está. E che bonito, che bonito, anche Peppe. E salutiamo i nostri amici Lorenzo Blues e Pigno in aula. Focosi, boniti, bonitos anzi. E niente, volevo citare una cosa. No, abbastanza seria, Peppe. Il fatto della mala università, non soltanto dobbiamo assistere alla mala sanità, al malvivere, alla mala politica, ma anche purtroppo alla mala università, perché ormai, parliamoci chiaro, l'università è diventato, ed è sempre stato, quel sistema, un'azienda, una vera e propria azienda. E cosa troviamo? Ci sono i baroni, ci sono i malfattori. E praticamente malfattori e baroni che partono dal nord fino alla punta di Pantelleria, diciamo, tutto lo stivale, se lo sguazzano e comunque è oltre. E il fatto è, il fatto grave, che arriviamo a pagare sempre più tasse non abbiamo i vari servizi, anzi, diciamo una cosa, le tasse aumentano, i servizi diminuiscono. Adesso noi cioè, accenniamo alla realtà calabrese, quella dell'Unical. Se qualcuno comunque ci sta ascoltando e ha comunque l'intenzione di intervenire sul tema universitario, che si faccia avanti, magari anche analizzando il suo punto di vista per quanto riguarda la mala università. Università che comunque Peppe va a preparare, non lo so, dovrebbe preparare i futuri lavoratori che non ci sono. Comunque ricordiamo che l'università non dà posti di lavoro, l'università dà cultura, non è un ufficio di collocamento. La gente viene all'università non è imparare un mestiere, che allora si chiamava Mascio dalle mie parti. Dovrebbe innanzitutto dovrebbe preparare uomini all'università. E l'attuale sistema universitario non prepara uomini perché gli costringe a studiare dalla mattina alla sera e a dare esami in fretta e furia ed andarsene a casa. Purtroppo l'università dovrebbe essere una cosa seria, dovrebbe essere un luogo in cui si cresce culturalmente come uomini. E poi il posto di lavoro deve venire successivamente, ma il problema non sta all'università il posto di lavoro, il problema sta nel mondo del lavoro, nella politica attuale, che i nostri politici sono, diciamo, poca roba, sono, non so come definirli, penso soltanto al loro voto di scambio, sistemare l'amico, avere la sua propria auto blu. E a questi politici che diciamo che interessa soltanto una cosa, interessa il vil denaro. Volevamo dedicare un pezzo, un pezzaccio del 1985, mi sembra. Questo pezzo è stato scritto da un professore della musica. Questo pezzo si chiama Money for Nothing ed è Dire Straits. Oh, that ain't working. That's the way you do it. Get your Sulle note di Money for Nothing, pezzo dell'88, no, dell'85, come ho detto precedentemente, e lasciamo la parola al nostro, diciamo, alla voce sensuale di Ciccio, al riccio che piace. Al riccio del capriccio. Allora, niente, io il morismo di Peppe è da ammirare, chiederei di fare un applauso un giorno, forse. A Peppe, mi dico Peppe. Niente, vorrei ricordare una cosa praticamente che fa paura ancora, fa paura, i dogmi della religione, essere bigotto proprio, che rende ancora oggi la civiltà invivibile, una società invivibile per questi, diciamo, paraocchi hanno tantissime persone. Adesso leggevo proprio che praticamente a Piacenza è stata uccisa una ragazza indiana di 27 anni, è stata strangolata dal marito, uccisa per gelosia, ma soprattutto perché non tollerava il suo modo di vestire lontano dalle tradizioni familiari. Peppe, ci ritroviamo da una nazione all'altra, appunto, vabbè, il nostro spirito di clandestino Gid è proprio questo, non avere nessuna terra, essere cittadini nel mondo, ma notizie del genere fanno discutere e ragionare tanta tristezza. Sì, purtroppo viviamo in una terra dove la religione influenza tantissimo il nostro modo di fare, tutta la nazione italiana, diciamo, è influenzata dalle decisioni del Vaticano, le decisioni politiche addirittura del nostro Stato dipendono da quello che dice il Papa la mattina. Se il Papa si alza col piede storto, gli viene in mente che non va bene una cosa, tutti i cattolici votano quello che dice il Papa. No, vabbè, non tutti i cattolici, stiamo parlando di gente bigotta. Il fatto sta che nei nostri paesini poi questa influenza di ha segnato molto il modo di vivere della gente, che è chiusa, pensa che tutto è peccato, guardare una persona è peccato, parlare con un'altra persona solo perché è diversa è peccato, quindi il bigottismo fa soltanto male, non fa crescere. La fede va bene, la rispetto a chi ce l'ha questa fede, però non deve essere qualcosa che ti impone di vedere gli altri con un occhio un occhio cattivo. Basta che lo vedi con la religione va vista anche con critica, non va preso tutto come un dogma, secondo me. Vabbè, il fatto dei paesini, anche comunque il fatto del mondo in generale, comunque ed anche delle varie religioni, questa ragazza era musulmana. A riguardo, proprio perché, quindi Peppe, a noi questa situazione, noi clandestino Cid non sta bene, quindi vogliamo cambiare questa situazione, e già un cambiamento ce lo offre questo progetto musicale, del quale ora ascolteremo un pezzo, High Ground di Steve Wonder. Praticamente è un progetto musicale, si chiamano i Play for Change, e niente, sono degli amanti delle cover, praticamente cover anche come Blind Man, canzoni di Bob Marley, canzoni di Stand By Me, di John Lennon e varie altre canzoni che potete trovare sul sito proprio playforchange.com, oppure ascoltare direttamente da YouTube. È un progetto musicale che offre spazio ai vari artisti, e mi sento di dedicare il pezzo a un amico che ha fatto in modo che io conoscessi questo meraviglioso progetto, Raffaele, che ci ascolta da Pisa. E naturalmente mi scuso perché ho citato prima lui, e ringrazio anche la dottoressa Siscar Martinez e tutti gli amici della Spagna che ci ascoltano in questo momento. Buon ascolto. Fantastico pezzo, aggiungerei fantastico blues. Volevo leggere un'altra notizia, Peppe, precamente. Guarda, che bella la Scozia, comunque anche uno spirito libero, uno spirito molto aperto. E precamente in Scozia da qualche giorno a questa parte è stata censurata la parola papà per rispetto ai genitori gay. C'è un atteggiamento comunitario quasi anche a distruggere la classe sociale, la classe di cui si proviene proprio i genitori. Beh, molto mi va di ricordare anche un certo Campanella, la sua città del sole. Forse in un futuro la Scozia diventerà la futura città del sole, l'utopica città di Campanella, Peppe? Ma non lo so se la Scozia diventerà la città del sole, visto che là c'è un sacco di nebbia, no? Un po' parecchia umidità in Scozia, dato che siamo all'estremo nord dell'Europa, della penisola britannica. Censurare parole, come la vedo io? La censura è una cosa sempre negativa. Più che vuol dire rispetto per i... com'era? Per rispetto per i genitori gay. Che vuol dire? Quindi poi per rispetto dei genitori non gay censuriamo la parola gay, ma che significa? No, in senso, che significato ha censurare una parola per rispetto di un altro? Il contrario invece. Se tu censuri una parola vuol dire che non rispetti quella. Come se in Italia censuriamo la parola giallo per rispetto del blu. Cazzo vuol dire? Non trovo alcun senso in questa. La censura non mi apparterrà mai, diciamo. Niente. Vogliamo andare con un altro pezzo, Cicci? Vuol dire qualcosina? No, appunto tu hai cominciato con la parola la censura non mi apparterrà mai. E a parte la censura, penso anche clandestino abbraccerà la tua iniziativa sulla censura, ma anche sulla patria e sulla politica. A proposito, mandiamo il pezzo dei Soldier of Jan Harm, non patria, no politica. Living to fight, proclaim superiority. Is in way over his divinity. Oh Lord, there's much more to see, but nothing to prove, no reason to worry. Rastaman got lots to do with your love. Ritorniamo in studio. Niente, un bellissimo pezzo comunque, che parla di libertà, dello spirito libero, di un gruppo che è comunque recentissimo, quindi ancora adesso un gruppo del 97 che sta, è proprio il simbolo che la buona musica non sta morendo, però c'è ancora, c'è chi sa fare buona musica, come ci sono gli ascoltatori della buona musica, c'è anche chi sa fare la buona musica. Io, Peppe, mi sentirei di ringraziare tutti i nostri ascoltatori stasera, che comunque per noi è un piacere, no? È un piacere informare, è un piacere discutere con loro. Vorrei anche un po' di partecipazione da parte vostra. Scriveteci su Facebook o sul nostro indirizzo email, che è clandestinocid.cid@gmail.com. Io adesso passo la parola a Peppe. Siamo quasi in chiusura, direi. Dopo due ore eccezionali trascorse con voi che ci state ascoltando, che avete deciso di impegnare la vostra serata ascoltando due pazzi come noi, due pazzi con tra virgolette, diciamo, anche senza virgolette è uguale, anzi in grossetto invece che con le virgolette. Leggiamo sul giornale che è successo un altro scandalo nel calcio italiano. Sono stati arrestati 19 persone, tra cui calciatori calabresi come Pellicori qui a Cosenza, Sculli, nipote di un boss mafioso di Locri, e altra gente nel nord Italia. Diciamo che il calcio italiano è una bella cosa. La gente la domenica va allo stadio, si insultano tra tifoserie, ci sta anche lo sfottò fino a un certo punto, e poi questi qua, uno tifa, si ammazza con l'avversario e poi questi si vendono le partite giusto per farsi i propri interessi. Quindi diciamo che il calcio ha perso da tanti tempo il fascino che aveva prima. Possiamo invece trovare uno sport come il rugby, dove diciamo il tifoso rispetta l'avversario, dove quando siamo i tifosi sono insieme nelle curve, nello stadio, e poi alla fine bevono birra tutti insieme, come si dovrebbe fare nello sport, perché lo sport serve ad aggregare, non a dividere, queste faide che ci sono anche in Calabria, qui tra le varie città, che non si possono vedere tra di loro, a me personalmente non piacciono. E non penso che... sarebbe bello se tutti quanti la domenica andiamo allo stadio, ci vediamo una partita insieme con gli avversari e poi alla fine ci andiamo a bere una birra. Chi ha vinto ha vinto, chi se ne frega. Tanto è solo uno sport. Giusto uno sfogo così personale leggendo queste notizie sul quotidiano della Calabria. In questi giorni è successo anche... sono successe tante situazioni tragiche, come il terremoto... nell'Emilia Romagna, che ha prodotto un sacco di sfollati. Diciamo che in Italia siamo abituati a queste crisi dove alcuni costruttori senza scrupoli non vedono l'ora che si verificano questi eventi per poter ricostruire, per poter incassare il denaro per ricostruire queste case, come abbiamo visto all'Aquila. Là c'è stata una speculazione assurda. E lo stesso Bertolaso, che è stato l'eroe Bertolaso, che è stato, diciamo, intrallazzato con molti costruttori per la ricostruzione di questa L'Aquila. E ora, tuttora, molti aquilani sono fuori casa, senza tetto, e quello stesso che è successo nelle Marche, nell'Umbria, nell'Irpinia. Non lo so, ci sono stati un sacco di terremoti in Italia dove... c'è stato il mito della ricostruzione per un breve periodo di tempo, quando era forte l'interesse televisivo, e poi una volta esaurito il fenomeno mediatico si è lasciato perdere. Questa gente ormai non serve più a niente, le elezioni sono state vinte, adesso state in una tenda, state nel vostro bel container, come quelli che troviamo a Gioia Tauro pieni di cocaina. Ma questi sono altri container, questi sono container che la gente ci vive purtroppo e si deve adattare, deve vivere là dentro come si adatta, purtroppo. E niente, passo la palla a Ciccio o mandiamo un pezzo. Ti passo la palla, dai, ti faccio un assist. La stoppa di petto, incredibile, il giocatore a quest'ora. Sì, Peppe, comunque, partendo dal calcio, l'abbiamo già abbandonato, pensiamo al rugby, anche al rugby femminile soprattutto. Per quanto riguarda, sì, quello che hai detto è giustissimo, a me sta a cuore il fatto di ricordare anche le persone, come abbiamo fatto prima con la Diaz e Carlo Giuliani. Innanzitutto anche comunque movimenti che nascono, i movimenti che non vanno soltanto additati da chi sta al potere, i movimenti visti come qualcosa di negativo, ma sono dei movimenti che portano e cercano di portare un cambiamento, come il movimento anti-globalizzazione nato a Seattle negli Stati Uniti. E per quanto riguarda Seattle, la città che diede i natali al mitico Jimi Hendrix, vogliamo, e non solo certo, anche a Janis Joplin, vogliamo addentrarci in quest'ora magari pacata della notte nel cosiddetto Seattle Sound. Presento il gruppo, anzi no, passo la palla a Peppe. Ma è presente? No, giusto un appunto, che c'era un nostro ascoltatore che proponeva, consigliava la visione di Dracula, l'Italia che trema, della Guzzanti. È un documentario che parla appunto del terremoto di L'Aquila e parla appunto della ricostruzione. Il Seattle Sound, che dire, il Seattle Sound bellissimo. Ci sono stati un sacco di cantanti nati in quella zona, diciamo che l'Emilia Romagna d'Italia, possiamo dire. Forse il contrario. E lì è nato anche il grunge, un genere che a me piace tantissimo. I Mad Season, che sono per l'appunto un gruppo grunge, come ricordiamo più famosi Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains. Sono un gruppo formatosi proprio in quegli anni. Sì, sì, infatti appunto i Mad Season sono un gruppo nato nel 94, formato dai gruppi di Alice in Chains, Pearl Jam e Screaming Trees per l'appunto, che sono il genere che dava più in auge in quegli anni, negli anni, primi anni 90. Purtroppo a Seattle in quegli anni morivano un sacco di persone di eroina, l'eroina che andava come il pane in quelle zone. Per l'appunto anche parecchi cantanti grandi sono morti per overdosi di eroina. E ora mandiamo il pezzo I'm Above. sulle note di I'm Above torniamo qui durante la notte, come direbbe Marzullo, sottovoce e sottocoperta. Allora, per l'appunto volevo sempre questo cazzo di per l'appunto basta. L'ho ripetuto più volte stasera che in tutta la mia vita. E non è una parola che uso di solito. Allora, questo mitico gruppo, i Mad Season, che si sono uniti per l'appunto, nel 94, dopo la morte di Kurt Cobain e di Nirvana, sono quattro autori grunge, il cantante degli Alice in Chains, il chitarrista di Pearl Jam e altri due che hanno fatto un album, I'm Above. Volevo ricordare comunque una data, il 5 aprile. Il 5 aprile del 94 e il 5 aprile del 2002. Il 5 aprile del 1994 moriva Kurt Cobain. E il 5 aprile a Seattle. E il 5 aprile del 2002, sempre a Seattle, moriva Lane Staley. Un giorno che tutti reputano la morte del grunge, proprio il 5 aprile. Come il 5 maggio per Napoleone. E volevo parlare a... Volevo il nostro inviato Tarlo da Roma, grandissimo Tarlo, grande mitico, che tutti conoscono, basta un nome, Tarlo, che inviterei a ritornare al vecchio nome di un tempo su Facebook. C'è stata a Roma a fine maggio, l'ottavo anno, un incontro di migliaia di ciclisti che si sono incontrati da tutto il mondo. No, ci deve ancora essere. Ma c'è stato, c'è stato. Oggi che giorno è? Ah, oggi è 29. Io, scusa, c'ho un problema con le date del calendario. Comunque il nostro inviato da Roma ci ha segnalato questo evento del 25, 26 e 27 maggio. Si chiama Critical Mass ed è un incontro tra ciclisti, ed è una bellissima iniziativa secondo me. C'è anche un sito internet che è www.cmona.org e c'è un video dove si porta un'automobile pure caposotto, e qui c'è scritto sul loro sito che l'automobile in città è un mezzo ormai obsoleto, come il PC da cui vi stiamo trasmettendo. passerei allora la racchetta, Ciccio. Facci un servizio. Un servizio, non lo so, siamo in chiusura e questo è il servizio che mi sento di dire. niente Peppe, passiamo ai ringraziamenti. Io mi sento di ringraziare tutti, saluto gli amici della Polonia, Alessandra, della Spagna, della Francia, di tutto il mondo, della Cina soprattutto, e spero che qualcuno stasera si ci abbia ascoltato. Comunque non penso che ci abbiano ascoltato la Cina, se il nostro streaming riesce ad aggirare la forte censura che c'è in Cina. Già ricordiamo che in Cina Google ha fatto parecchi intrallazzi col governo. Se voi potete fare un semplice esperimento, provate a utilizzare un proxy, che è un proxy, in pratica è un programma, è un servizio internet, diciamo, che collegandovi attraverso questo proxy lui fa finta di essere te. In pratica tu ti collega a un proxy cinese e quando ti collega a un sito, quel sito pensa che tu sei dalla Cina. Quindi se voi provate a fare questo collegamento con un proxy cinese, vi collegate sul sito freetibet.org, per esempio, un sito a caso, guarda caso che succede? Cade la connessione. Ci ho provato in passato parecchie volte e non è un caso. Poi dovevo riconnettermi a internet, proprio cadeva. La censura è forte lì in Cina, purtroppo. Ciccio mi indica col dito che vuole dire ancora una parolina, ve lo passo. No, non soltanto in Cina. Pepe, ti ricordi una volta che parlammo del fatto del sito calabro della massoneria, che succede la stessa cosa? C'era qualcosa a proposito della massoneria. Se, dato che su internet potete trovare dei file Excel dove ci sono tutti i massoni d'Italia, suddivisi per provincia, per regione, per mestiere, c'è di tutto. E alcune volte quando ti colleghi a questi siti la connessione per caso cade. Sarà un caso? Non lo so. Potremmo mandare un pezzettino di un gruppo poco famoso, direi, Ciccio. Un gruppo che sono dagli anni 60 sulla cresta dell'onda e ancora non hanno fatto un patto col diavolo, si narra in giro, non lo so. Questo è Shattered dei Rolling Stones. Eccoci di nuovo qui, sempre in onda, sempre online, vai, clandestino, la trasmissione che spacca tutto, nel senso lato, nel senso lato. Quest'anno sono i 50 anni, fa 50 anni, proprio lui, il mitico, eh sì, fa 50 anni, il gruppo dei Rolling Stones. Fa 50 anni, un saluto agli amici, Mick, salutiamo Mick. che Mick e Kate, che una serie di queste forse passerà a trovarci, ha detto, che ce l'ho amico sul mio social networks, Facebook, quelle cose là. No, non ce l'ho amico. Siamo qui. Ah, un saluto a Ertarlo da Roma, il nostro inviato, sempre pronto quando ci sono queste iniziative nel sociale a informarci, soprattutto. L'importante è informare, lo strumento, un media, deve servire a informare, non a disinformare. Quindi non guardate Studi Aperti il giorno, ma ascoltate Clandestino Cid lunedì. Ecco, volevo ricordare gli appuntamenti di Clandestino. Allora, sul nuovo sito di Fuori Onda Radio, realizzato da esperte mani informatiche, potete trovare il palinsesto di Fuori Onda Radio, dove ci sono le trasmissioni, che sono Banda Armata, la trasmissione a cura del laboratorio politico più occupata, Mozilla Bros, la trasmissione nerd con sonorità blues, La Lira di Apollo, la trasmissione culturale di Fuori Onda Radio. Poi c'è Good Slave the Queen, che è una trasmissione direttamente da Londra, dal nostro inviato Lupino. Un saluto. E Clandestino Cid, la trasmissione che state per ascoltare. Quando andiamo in onda, Clandestino Cid va in onda esclusivamente su Fuori Onda Radio, lunedì o alle ore 21.30, 22 diciamo. Come orario siamo alle 21.30, però se il nostro computer, questo mezzo potentissimo, ci consente di connetterci. Oggi abbiamo avuto un po' di problemi, infatti abbiamo iniziato con un po' di ritardo, ci scusiamo con i nostri ascoltatori che sono sempre fedeli. Abbiamo avuto un po' di problemi con il mezzo meccanico, diciamo. In replica venerdì sempre alle ore 21.30. Quello è l'orario puntuale perché c'è la replica. Quello è il mezzo, non sbaglia. Quando c'è il 21.30, perfettamente le 21.30 parte. Invece quando c'è la mano a mano ci può essere l'errore, però noi preferiamo la mano a mano la calda mano a mano rispetto alla fredda mano robotica, diciamo, meccanica. E le altre trasmissioni potete vedere il palinsesto sul sito di Fuori Onda Radio. E passerei ora il microfono a Ciccio, che aveva delle importanti informazioni da dirvi. Gelatone. Beppe, niente, io sì, appunto per la pubblicità che hai fatto, vorrei fare un appello a tutti i nostri ascoltatori di diffondere comunque anche su Facebook stesso, comunque di fare un po' di pubblicità, di aggiungere amici, di suggerire amici a Clandestino Cid, perché comunque una volta che noi avremo raggiunto un tot di amici, comunque no, quale 100 euro magari, no, comunque sarà un modo comunque di interagire tutti quanti insieme. Ricordiamo che dalla prossima trasmissione sarà possibile comunicare con noi tramite Skype, dal nostro contatto Skype clandestino.cid, e comunque abbiamo anche un contatto MySpace, che è sempre Clandestino Cid, e comunque su Facebook, che ormai purtroppo perché Facebook? Perché tutti hanno Facebook, e quindi diciamo che è un mezzo di comunicazione di massa, Facebook, e ci dà l'opportunità di comunicare con tutti. E ringrazio le persone la cortese attenzione, e non lo so, applicate quello che ho appena detto, suggerite il profilo Facebook Clandestino Cid anche ai vostri amici, come diceva Giovanotti una volta, fallo girare. vorrei ricordare un appuntamento del 6 del 6 giugno qui in Aula P2. Praticamente ci sarà musica ambiente, un modo per comunque delineare e analizzare il territorio in cui viviamo, e successivamente comunque musica, perché ci sarà l'opportunità per chi sa suonare, ma anche chi non sa suonare, perché ricordate che la musica è dentro noi stessi. Comunque ci sarà la jam session a fine serata con Tarelluzzi e Pino. Peppe, non lo so, ti va di salutare qualcun altro e passiamo all'ultimo pezzo. Io per stasera chiudo qui, buonanotte a tutti e un abbraccio collettivo. Un saluto anche da parte mia, ci riascoltiamo. Ci ascoltate lunedì prossimo, se vi è piaciuta la trasmissione, se volete. Dalla prossima volta ci dovrà essere attivo Skype, così possiamo interagire in maniera più diretta. Così mandiamo anche le telefonate nell'etere, le mandiamo in diffusione. Questo pezzo di conclusione è un pezzo di un gruppo molto importante per me. Questo gruppo sono i Pink Floyd, che tutti voi penso conosciate. Un gruppo nato negli anni 60 a Cambridge, in Inghilterra, all'università. Questi architetti che si sono incontrati là, spinti da Syd Barrett, il diamante pazzo, ci sono uniti. Syd Barrett, per l'appunto, voce e chitarra, Roger Waters, il bassista, Richie Wright, purtroppo scomparso nel 2008, alle tastiere, Nick Mason alla batteria, che sempre col suo baffo, e in seguito Barrett un pochettino soffriva di crisi nervosa, ha lasciato il gruppo ed è arrivato Gilmour, che ha segnato il sound dei Pink Floyd negli anni successivi con la sua chitarra. E vi vogliamo lasciare con Learning to Fly. Buonanotte. I thought of it. trail in the empty air. Across the clouds I see my shadow fly. Out of the corner of my watching eye, I dream unthreatened by the morning light. Could blow this soul right through the roof of the night.